e tutto a un tratto sono interessato a te, pagliaccio. Indossiamo maschere perché siamo senza palle. Quando le togliamo ci strappiamo via la pelle e quello che c'è sotto non ci piace. Carne nuda e cruda come quella sulla brace. È la stessa maschera indossata con disinvoltura a carnevale. Questa nasconde la vera natura come sorrisi dietro una paresi. Le tue cazzate bla bla bla sono palesi. Farcite a piacimento, ma ci manca un ingrediente. La mia versione dei fatti è del tutto differente. E tu ci stai giocando a nascondino con la verità di chi ha acquisito l'abilità di un cecchino. Sono di spalle che conto fino a 100. Allo scadere come tormento. E non importa dove ti sei nascosto, lasci tracce delle tue cazzate come orme dentro un bosco. E su di un albero una scritta che recita in latino: cazzata volant, rima manent, questo è il mio destino. Tu è un amico gangsta, io un amico rasta. Tu conosci tizio, io che ha fondato gente guasta. Non dire cazzate, mi scoppia la testa. Dov'è finita tutta la gente onesta? Bla bla bla, sei tutta chiacchiera. Non dire cazzate, tira giù la maschera. Bla bla bla, e spo per femminucce. Dopo le cazzate, carico le cartucce. Istanti sempre colmi di tutto ciò che vivo. Fratelli assai posticci che non te ho vicino. Discepoli attenti a tutto ciò che dico. Non dire cazzate, di sto pezzo è il mio motivo. Non vengo dal ghetto, ma ogni legge ha la sua strada. Macete che hai lanciato su chi non meritava. Parole che feriscono più volte della spada. Dio ti perdona, ma lui dimenticava. Io no. Governo che consuma, la pazienza ormai è finita. La chiesa che ci invoglia solo ad incrociare le dita. Pensieri, parole, opere, omissioni. Voci di cui sento l'eco nelle emozioni. Ricorda discepolo, grande ammirazione. Da sempre seguita da un'amara delusione. Adesso è capoverso, ossia un nuovo inizio. Non dire cazzate, o arrivo col supplizio. Tu è un amico gangsta, io un amico rasta. Tu conosci tizio, io che ha fondato gente guasta. Non dire cazzate, mi scoppia la testa. Dov'è finita tutta la gente onesta? Bla bla bla, sei tutta chiacchiera. Non dire cazzate, tira giù la maschera. Bla bla bla, e spo per femminucce. Dopo le cazzate, carico le cartucce. Ritengo che l'umanità sia nata da un conflitto. Per questo il bene lotta contro il male e viene sconfitto. Tutti abbiamo un lato oscuro che assecondiamo, alcuni lo combattono, il resto immobile a guardarlo. Sono la N e la doppia S, fino a ieri conosciuto come l'avvocato delle cause perse. Difendevo cazzari contro il mio interesse, perché quelle sincere erano scomparse. Oggi strappo maschere, sarò terrone ma non pirla. Ecco la verità per chi vorrà sentirla. Dio è l'amico immaginario degli adulti. Mezze verità e comandamenti ce l'hanno occulti. La tua preghiera per risolvere un problema. Uno sguardo al cielo alla ricerca del suo emblema. Se dire cazzate fosse peccato oppure un crimine, qualcuno dall'assù ti colpirebbe con un fulmine. Vedo quello in cui credevo come una bugia. Da domani sarò il giudice, il plotone e la giuria. Tu è un amico gangsta, io un amico rasta. Tu conosci tizio, io che ha fondato gente guasta. Non dire cazzate, mi scoppia la testa. Dov'è finita tutta la gente onesta? Bla bla bla, sei tutta chiacchiera. Non dire cazzate, tira giù la maschera. L'amicizia non è uno sport per femminucce. Dopo le tue cazzate, sparo le mie cartucce.